Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Continuiamo a ricevere le proteste e le accuse del Movimento 5 Stelle. Oggi Beppe Grillo ha detto che io sono uno showman. Che, detto da lui, mi pare un complimento. Ecco, vorrei dire al collega showman, fino a quando, caro collega, continuerai ad abusare dell'intelligenza dei tuoi deputati, che sono persone, e dei tuoi senatori, spesso molto più appassionate di quello che anch'io pensassi, che continuano a dare... qualcuno no, ma vorrei che facesse... che continuano a dare dei segnali, in questi giorni continuano a uscire elementi, grida di dispiacere per il fatto che 5 Stelle si sia autorelegato nel blog, che non possano uscire perché sennò hanno paura del blog, che non riescano a dire la loro, che non siano messi nelle condizioni di poter dare un contributo. Fino a quando, Beppe Grillo, continuerai a tenere chiusa a chiave la porta di quei voti o forse il PIN? Fino a quando, caro collega showman, continuerai a perdere occasioni su occasioni? Senatore Vito Crimi, buongiorno. Buongiorno. Insomma, botte da orbita, Renzi e Grillo, ancora? Guardi, continueranno ancora, perché Renzi è comunque un personaggio che deve far parlare di sé, mettiamola in questi termini. Vabbè, questi far giorni, parlare di sé ci provano tutti. Sì, ma in modo particolare l'attenzione è sul personaggio Renzi, che deve in qualche modo forse emulare il personaggio Grillo, forse un po' di invidia di fondo. Ah, dice che c'è un po' di invidia di fondo per Grillo? Secondo me sì. Insomma, sì. Combattono per la prima serata di Rai 1. No, non Grillo. Chi non conduce mi il varietà? Beh, lui non l'ha già sembra, fatta. Lui l'ha già fatto. Che Grillo abbia È fatto vero, lui l'ha già fatto troppo tempo. No, ma adesso, al di là degli scherzi, questa possibilità, in qualche modo, di avviare un dialogo. Non c'è dubbio che i voti di 5 Stelle sono chiusi in un recinto. Ma no, no, guardi... Beh, si è visto sulla Bossi-Fini che sono usciti in libertà, sono andati contro l'indicazione del blog. Ma no, questo, mi pare che sia un fatto questo. Ma questo mica deve essere considerato un fatto negativo, perché da ciò ogni volta dobbiamo andare a trovare sempre un'accezione negativa? No, no, io voglio un'interpretazione autentica. E che anzi, dagli stessi Beppe Grillo e Casaleggio è stato visto con favore in ogni caso, perché è un risultato tra l'altro abbastanza evidente, quindi indiscutibile, è comunque un esercizio di democrazia. Io lo stesso già Roberto Casaleggio l'ho visto qualche giorno dopo, quando è venuto qui a Roma, era felicissimo del risultato, a prescindere però dal merito. C'era, diciamo, guardi, c'era una differenza tra la linea di Casaleggio e Grillo e la vostra. Però le spiego anche questa cosa. Noi siamo qui, e questa è la cosa fondamentale che vorrei ripetere in tutte le occasioni, non per fare una rivoluzione nel merito esclusivamente, ma nel metodo. Questo è il nostro principale obiettivo, e già ci stiamo riuscendo. Io vorrei che alcuni segnali fossero evidenziati, e voi lo fate ogni tanto. Insomma, su alcuni segnali si può dire che la nostra presenza ha cambiato alcuni meccanismi che erano ingessati e incrostati. Ma da certo, la rete è entrata sicuramente nella politica. Ma questo non solo è fuori la rete, ma anche il linguaggio. Io le faccio notare questa cosa, la parola cittadini. Lei provi a vedere quante volte cittadini è stata non usata... è una parola nuova. Assolutamente sì, perché nel linguaggio politico la parola utilizzata era la parola elettori. Provi a fare questo confronto col passato. Vabbè, 25% dei voti per chiamarsi cittadini invece che elettori sarà un risultato, ma si può far di più, diciamo. Sicuramente, però... Intanto, voi volete il proporzionale, no? Col vostro sondaggio. Questo è stato sondaggio. Quello che abbiamo scelto dalla rete. E quindi ancora niente, siamo ancora su piani completamente diversi, cioè non parteciperete alla discussione. Ma guardi, basta vedere i commenti dei costituzionalisti stamattina, quindi io non voglio neanche andare a scomodare opinioni personali o altro, io mi limito esclusivamente a, stamattina ho visto la rassegna stampa dei commenti dei costituzionalisti emersi di trasversali, che dicono che è un pastrocchium, qualcuno l'ha definito, che hanno definito un tradimento della sentenza della Consulta. Vabbè, insomma, c'è anche chi dice il contrario, naturalmente. Io ho visto una bella sfilza di Senta, di comunque, volevo chiederle, dopo Renzi, dopo Bersani, anche Renzi ha provato a coinvolgervi nella discussione della legge elettorale, questo è fuori discussione. perché non è possibile fare queste discussioni? Su che basi approva? Su che basi le afferma che ha approvato? Io non c'ero, quindi non lo so. Perché un coinvolgimento personale non l'abbiamo avuto nelle sedi competenti. E quando Renzi ha lanciato quelle tre proposte che sembravano tirate fuori dal cappello, ma erano le tre proposte in ballo praticamente nei tre ordini del giorno da mesi in Commissione Affari Costituzionali, la sera prima, quindi prima, non dopo, prima, Beppe Grillo gli aveva già lanciato una proposta: andiamo subito al voto col Mattarellum. Quando lui il giorno dopo tira quelle tre proposte, come se fosse una novità, probabilmente non ha ascoltato quello che era stato detto il giorno prima dallo stesso Beppe. Quindi, insomma, tutti parlano e nessuno senta. C'è Mario Secchi che vuole fare una domanda, Crimi. Buongiorno, Crimi. Buongiorno. Allora, tutti i modelli elettorali, tutte le simulazioni dicono una cosa, che è vero, voi non avete partecipato alle trattative per la legge elettorale, però siete in Parlamento comunque come terza forza. Per quanto tempo ancora però resterete fuori dal risico, dal gioco politico? Perché è una cosa che poi prima o poi vi logorerà. Ma ancora insistere su questa cosa di essere fuori dal gioco politico? Noi siamo tutti i giorni nel gioco politico, che è quello delle cose da fare e non nelle elucubrazioni. Vabbè, la legge elettorale è una cosa da fare, non è un'elucubrazione. Allora, le dico una cosa, noi abbiamo... chiariamo questa cosa, noi siamo stati dal 2007 a insistere con una legge di iniziativa popolare per il ripristino della preferenza e quindi nessuno può togliere questo diritto di avanzare questa proposta. Oggi, tutt'oggi la preferenza non viene messa in campo. Ma senta, la preferenza che una volta era simbolo di corruzione, come mai adesso è diventato il punto più alto della democrazia? Questo Ma è curioso. Io lo dico subito, perché il problema oggi si cerca di accusare sempre gli strumenti. Il problema non sono gli strumenti, ma sono le persone. Questo sempre. E quindi, e questo fin dall'inizio l'abbiamo detto, anche quando si cerca di accusare il bicameralismo, l'abolizione di una camera, non è lo strumento, non cerchiamo un capro espiatorio. Se uno deve andare a Milano e c'ha solo le scarpe per andare a piedi è più scomodo. Io le dico con molta franchezza, in tre giorni una legge si approva anche col bicameralismo perfetto se c'è la volontà politica. Mi fa un esempio che io non me lo ricordo, sono troppo esempio, giovane. Il classico esempio è la legge Alfano che si fa in tre giorni, però non solo quello, basti vedere le conversioni in decreto legge. Senta, ma l'esperienza siciliana di sostegno a Crocetta vi ha reso diffidenti rispetto al sistema? Ma guardi, l'esperienza di Crocetta lì è proprio diversa, anche il meccanismo, perché lì non c'è il meccanismo della fiducia o altro, quindi il sostegno era su ogni singola iniziativa, infatti eravamo liberi di poter sostenere proposte sensate, ma lo siamo tuttora. È finita tuttora. Male, ma guardi, senta, dico, scusi un attimo, scusi un secondo, c'è un Emiliano da Milano, un suo elettore. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo. Lei è un elettore di 5 Stelle? Sì, sono stato un elettore di 5 Stelle venendo da un voto di centrosinistra. Sì, e allora la domanda Crimi è che se si parla oggi di alcune cose è per merito loro, sicuramente hanno portato a galla certi problemi di cui non si parlava. E poi? Però adesso arrivando alla fine, per risolvere le cose bisogna parlare con gli altri. Bisogna parlare. Va bene, e questo è quello che stiamo cercando di dire, Crimi. Guardi, le dico sinceramente, noi parliamo tutti i giorni nelle sedi competenti e nessuno questo lo può negare. Potete andare a vedere. Allora è un brutto racconto che fanno i media di voi, secondo lei? Ma il brutto racconto è il racconto che riguarda esclusivamente il dialogo televisivo e il dialogo a mezzo stampa, perché ci rifiutiamo di dialogare a mezzo stampa, ci sono le sedi competenti. Certo, c'è la Commissione Affari Costituzionali della Camera che sta affrontando la legge elettorale, ci sono 8 nostri componenti della commissione e stanno affrontando direttamente il logo, per cui stanno facendo le audizioni. Allora bisogna essere le faccio una domanda personale, lei ha partecipato allo streaming quello un po' drammatico con Bersani. Quando Bersani è stato male, lei si è fatto vivo, l'ho andato a trovare? Guardi, ecco, le dico la verità, io sono stato il primo forse, perché ero davanti alla TV quando è stato annunciato a lanciare un messaggio su Facebook di solidarietà. È andato a trovarlo? No, non sono andato a trovarlo perché non mi sembrava neanche, mi sembrava proprio una speculazione magari, perché ci sarebbe stato poi qualcuno dietro, però il messaggio di solidarietà l'ho mandato e l'ho rimandato, va bene, rimanderei perché comunque davanti... Va bene, era solo una domanda, per sapere politica e umanità come si incrociano. No, due cose. Le faccio un'ultimissima domanda. Senta, le do un compito. Sì, mi dica. Ma mi porta Grillo a fare un faccia a faccia? Non forza, faccia l'ambasciatore, cominciamo. Non deve chiedere a Grillo, il faccia a faccia deve fare con noi parlamentari. Vabbè, lei è qui, siamo qua tutti i giorni, un'eccezione con Grillo. Abbiamo fatto anche Fico. Anche Fico, tutti. Voi, possiamo continuare su questa strada. No, niente, Grillo non me lo porta, vabbè. Non dipende da me. Va bene, comunque posso contarci che casomai una parola buona la spende. Grazie. Va bene, provo. Grazie, buon lavoro. Ma aspetti un attimo, c'è Mario, sì. C'è Mario Seghi. Climi, sono una cosa. Sì. Sapete che se voi vi coalizzaste con questi modelli elettorali proposto anche con quello definitivo, voi rischiate di vincere le elezioni. Cioè, gli altri contano sul fatto che voi non vi alleate con nessuno. Ma se fate un'alleanza vincete, questo è un paradosso. La dimostrazione è che non facciamo una battaglia elettoralistica o politica. Una battaglia per perdere. Grazie, Grillo. Una battaglia per perdere, ma è una battaglia in cui l'interesse non è quello nostro, ma quello dei cittadini. Ma lo dico con molta sincerità. E noi l'ascoltiamo con affetto. Grazie a voi, arrivederla. Buona giornata. Vannoni, ma lei non ha preso un euro dall'attività di Stamina? No, neanche un centesimo. Ma pensa di farci dei soldi con Stamina? Con Stamina farà sempre solo una perdita di denaro, però è un guadagno molto più alto che non quello dei soldi. Che guadagno è? È il guadagno di salvare delle vite. Per accedere alla metodica Stamina e De Matteis devono tirare fuori subito 2.000 euro per il carotaggio che pagano ad una clinica privata, più i soldi da dare al gruppo di Vannoni. C'erano i 27.000 euro. Ma lui ci ha detto che il costo era questo e andava pagato questo. Vanno in piazza a Roma a togliersi il sangue per fare questa cura che non so che cosa si aspettano da queste punture. Io questo non lo so che cosa si aspettano. Lei ha rilasciato delle interviste dove era entusiasta, dove c'erano stati dei risultati. Perché avete rilasciato queste interviste? Perché Vannoni ci ha detto che se non si faceva il ciclo completo delle iniezioni non sarebbero servite a niente. Quindi ve l'ha chiesto lui di fare queste interviste? Sì, mi ha fatto chiamare da un giornalista. 800 24 00 24 il numero verde, 349 238 6666 l'SMS. Questa è la polemica che è in atto, violenta, forte, drammatica, perché coinvolge dolori e speranze. Comunque il ministro Lorenzin ieri da Paola Saluzzi a Sky ha detto questo. Ho individuato i nomi di un nuovo comitato scientifico. Il comitato non è stato ancora firmato il decreto per un semplice motivo, che poiché siamo in mezzo a un fatto processuale, ogni singola mossa del Ministero deve essere vagliata dall'avvocatura dello Stato, che poi si confronta anche col TAR. E dopodiché il nuovo comitato continuerà la sua procedura. Detto questo, si tratta di una delle vicende, secondo me, più complesse che abbiano investito la sanità e il rapporto tra salute politica e mass media in questo paese, nel senso che si comprenda bene che la politica fa la politica e la scienza fa la scienza, e l'informazione, quando fa informazione sulla salute, secondo me non deve seguire lo share o l'audience, ma deve preoccuparsi di dare una corretta informazione, perché ogni singola parola in più può incidere sulla vita e anche sui percorsi sanitari, spesso delle scelte di alcune realtà. Avremo qui il ministro a Mix24 quando ci sarà la nuova commissione. L'altro giorno, comunque, sulla stampa, la senatrice Elena Cattaneo, il professore Michele De Luca e il professor Gilberto Corbellini hanno scritto una lettera durissima. Gilberto Corbellini, professore di storia della medicina alla Sapienza. Ecco, com'è stato possibile l'utilizzo del metodo Stamina se, come è emerso, è una truffa? Chiaramente delle connivenze e anche degli interessi da parte di persone che probabilmente erano in posizioni di potere. Quindi per interessi, ecco, ma ogni ospedale può adottare cure sperimentali a sua discrezione? No, perché esistono delle linee guida di buona pratica clinica e ogni ospedale può adottare il tipo di cura che è stato approvato e soprattutto che è stato prima testato perché sia sicuro e sia anche efficace. E quindi se sono utilizzati sono fuori dalla regola. Certo. Ma com'è possibile, professor Corbellini, per i cittadini capire che cosa è utile tentare o che cosa no? Sono i medici di riferimento? Esiste l'AIFA, esiste l'Agenzia Nazionale per il Farmaco e attraverso, diciamo, il controllo dell'AIFA possono essere provati soltanto quei trattamenti che appunto sono sicuri ed efficaci. Ma cosa pensa di quei magistrati che hanno consentito l'accesso al metodo Stamina? Sono molti i casi. Io penso che siano, diciamo, siano andati al di là di quello che è il loro compito, perché fino a prova contraria si tratta di questi magistrati finiscono per prescrivere a dei pazienti un trattamento che non è stato approvato e che è fuori dalle regole. Cioè fanno i medici, si sostituiscono ai medici? Sì, alla ricerca, insomma. Certo. Senta, nella vostra ultima lettera aperta alla stampa, professor Corbellini, avete criticato l'approccio dell'informazione al metodo Stamina. Che cosa contestate esattamente? Contestiamo il fatto che invece di chiedere o rivolgersi a scienziati o comunque invece di stare ai fatti che dimostravano che questo trattamento non aveva alcuna base scientifica, le Iene hanno invece deciso di promuoverlo di fatto. Comunque le Iene replicano dicendo: abbiamo avuto curiosità per un tipo di cura compassionevole che avevano dato dei segnali, perché non avrebbero dovuto farlo? Trattamenti che possono passare anche come cure compassionevoli devono comunque essere stati dimostrati sicuri, e in ogni caso non mi sembra che sia un argomento valido quello di promuovere la curiosità, però è propria del giornalismo. Beh, ma qui stiamo parlando di trattamenti che possono essere anche rischiosi per la salute delle persone, dei malati. Senta, ma allora quando la ricerca deve essere raccontata? Cioè a che livello di risultati va raccontata? La ricerca va raccontata dopo che è stata vagliata attraverso le procedure che sono sostanzialmente accolte e utilizzate in tutti i paesi civili. Professore, lei è professore di storia della medicina. Ecco, mi dice dei casi analoghi a quelli di Stamina oggi, per esempio, che ricorda? Il caso di Bell. I casi analoghi accadevano sostanzialmente prima che la medicina acquisisse una metodologia di carattere scientifico. Ancora un'ultima domanda però. Alcuni genitori che hanno usato per i loro figli il metodo Stamina dicono di essere andati in ospedali pubblici. Allora come la mettiamo con gli ospedali pubblici? Hanno sbagliato gli ospedali pubblici che hanno accolto queste possibilità di... Certo che hanno sbagliato. Questo trattamento è stato bloccato da una ordinanza dell'AIFA a metà del 2012. Grazie, professore. Buongiorno, mi presento. Sono una cellula staminale e volevo dirvi una cosa. Mi avete rotto i coglioni, ma proprio rotti, eh? Parlate tutti di me. Politicanti, bagnanti, preti, frati, monache, ovviamente i giornalisti, i televisionisti, i candidati al Parlamento, addirittura i filosofi e i musicisti, per non parlare di attori e dei registi, perfino gli impiegati ai fattorini al bar, le veline e le letterine, senza sapere un cazzo. Soprattutto perché ormai, avendo assunto l'autoreferenzialità da Grande Fratello, non ascoltate altro che voi stessi. Professor Guido Lucarelli, ematologo a Tor Vergata, questo che ha letto Sara Tardelli, in realtà lo ha scritto lei. Ecco, può continuare? Che cosa sono le staminali? Sì, io l'ho scritto per farsi capire, facendo finta di essere una cellula staminale, che è molto semplice. Noi tutti nasciamo perché lo spermatozoo del bambino è andato dentro l'ovulo della mamma, si è formata una cosa che si chiama zigote. Per un po' di tempo questo zigote, che è una cellula, si divide 2, 4, 8, 16, 32 in una maniera che si chiama simmetrica, finché arriva a un livello che si chiama morula, blastula, eccetera eccetera. Poi a un certo punto succede il Big Bang. Cioè, nell'ectoderma, mesoderma, endoderma, che fa parte dello sviluppo embrionale, dei grappoli di cellule diventano cellule staminali, quelle che io le chiamo così per me, io certo. Sono toscano e faccio delle definizioni toscaneggianti, sono cellule staminali assolute, sono quelle che dispongono tutte insieme e poi si dicono: tu vai avanti e fai il fegato, tu vai da quella parte là e fai il sangue, tu vai da quella, tutte e due sono cellule staminali eterne, perché si dividono lasciando una come se stessa e una va avanti a fare il sangue, il fegato e così via. E quindi? Quindi ci sono due livelli di cellule staminali, una assoluta e una che si evolve. È molto semplice, non è una cosa che ho inventato io. Tolminoli, gli ematologi non sono più intelligenti degli epatologi o dei cardiologi, ma siccome noi dall'epoca di Noè abbiamo la possibilità di prendere l'organo che studiamo con l'aspirato midollare o prendendo il sangue, il nostro organo è studiatissimo e abbiamo visto la cellula staminale 40 anni fa. Uno non può andare a bucare il pancreas e studiare il pancreas per vedere le cellule staminali del pancreas, per cui deve arrivarci per via, chiamiamo così, ideologica. Ecco, oggi siamo lì. Ecco, ma adesso tutti pensano che la parola staminale sia sinonimo di miracolo. Sì. Perché? No, è perché c'è una sopravvalutazione del risultato. Allora, come ha dimostrato bene, io l'ho visto per televisione, la professoressa Cattani ha fatto vedere il suo laboratorio, che è grande, pieno di cervelloni, pieno di attrezzature, pieno di macchine, tutti studiano il passaggio dalla cellula staminale assoluta e cercano la maniera di dirgli: senti assoluta, vieni giù, fammi questo serbatoio per riparare la pelle oppure per riparare il sistema nervoso. Questo oggi è stato divulgato dalla stampa ed è bellissimo perché è uno studio, ma fino adesso non c'è ancora riuscito nessuno. Ah, ecco. Senta, professore, aspetti un attimo perché dobbiamo dare la pubblicità e torniamo da lei. Sì. Mix 24 800 24 0024 il numero verde, 349 238 6666 gli sms. Ricordo che chi scrive un sms si deve firmare, se no non lo possiamo leggere. Ecco, stiamo parlando col professor Guido Lucarelli e parlavamo delle staminali. Ci ha fatto un racconto appassionante. In realtà il professor Lucarelli, un miracolo, lui l'ha fatto con la sua ricerca, è riuscito a debellare una sorta di leucemia, scusate la improprietà di linguaggio, che si chiama anemia mediterranea. Come professore? Ma la ringrazio per questa cosa. Nell'attività di guerra contro le malattie, non sempre il pioniere che vince una battaglia la vince perché è intelligente o perché la vince perché sta facendo la guerra. Nella talassemia noi avevamo intuito che, avendo l'esperienza di prendere le cellule staminali da un donatore e metterle dentro un ricevente, sì, e queste ricostituivano il midollo per sempre, sì, siccome la cellula staminale del talassemico, come succederà anche per il falcemico nero, ha dentro di sé, non ha gli ingegneri che dettano le metodiche per fare l'emoglobina. Allora noi abbiamo buttato via il midollo del bambino talassemico malato e abbiamo fatto entrare delle cellule che sono state usate come vettore, sono le vetture che portano dentro gli ingegneri. Questo ha corretto il difetto genetico, è diventata una prassi ormai attivata in tutto, il mondo. Quindi lei è stato uno dei primi che ha fatto il trapianto di midollo, no? Sì, sì. No, di midollo nella talassemia. Sì, certo, naturalmente. Nella talassemia. Sì, i primi due trapianti di midollo nella talassemia, poiché gli italiani sono sempre quelli considerati dei colonizzatori di secondo arrivo, è stato fatto praticamente nella stessa settimana da me, dal mio gruppo a Pesaro e dal mio capo americano Dan Thomas a Seattle. Ecco, sono dopo chi è primo, chi è secondo, a me non me ne frega niente. Sì. Il fatto sia che la comunità scientifica internazionale ha, dopo anni di botte, di calci... Ecco, professor Lucarelli, volevo parlare un attimo di queste botte. Questa sua ricerca è stata aiutata oppure contrastata? No, perché quando si cerca qualcosa, in genere si è soli. No, è stata contrastata fino a che sentivo prima il professore precedente che diceva qualche critica alla stampa perché lei ha detto quando è che si deve annunciare il risultato di una ricerca, perché ci vuole molto tempo, perché ci sono le riviste mediche, ci sono i congressi, la comunità scientifica si parla all'interno di se stessa e fa critiche a volte anche cattive prima di accettare un fatto nuovo, mai successo prima. Nel dicembre del 1981 c'è stata una svolta storica di una malattia che prima era sicuramente progressiva e poi è stata guarita. Quella è stata la svolta storica. Professore, mi scusi, c'è Mario Secchi che è sardo, sì, perché se ne intende di anemia mediterranea, che vuole farle una domanda. Conosco bene il problema. Professore, mi aggancio a quest'ultima sua dichiarazione. Ricordo che Enrico Fermi diceva ai suoi studenti: è meglio arrivare secondi. È vero anche nel caso della sua ricerca qualche volta? Sì, perché per esempio noi che all'inizio ci siamo coagulati tutti insieme con il gruppo dei medici sardi, perché? Perché i medici sardi erano quelli che capivano la malattia, noi eravamo solamente dei meccanici, prendevamo una cellula e la mettevamo lì dentro, ma come si vedrà dopo anche per la falcemia nera, bisogna prima conoscere la malattia. Ecco. I medici sardi non gliene frega niente se la prima pubblicazione su Lancet porta il nome di Dan Thomas e la seconda su Lancet che funziona. Non gliene frega niente, gliene frega che alla fine chi ha tirato la carretta. I suoi malati guariscono. Ecco, professore, lei sta parlando di neri, su cosa sta lavorando adesso? Perché è una forma... Perché sappiamo che uno dei suoi terreni d'azione è l'Africa adesso. Sì, 150.000 anni fa due neri, uno maschio e uno femmina, che facevano le cosacce dietro un albero, un fulmine gli ha cambiato la sequenza di aminoacidi, ha fatto un'anomalia genetica del nero, Black African, nei Bantu, poi la schiavizzazione, l'emigrazione, così l'ha portata in tutto il mondo, ma in Africa, in Nigeria nascono 150.000 bambini all'anno malati con questa anomalia, che è una malattia sempre del globulo rosso, sempre dell'emoglobina, ma tremenda, invalidante, dolorosissima e così via. Col protocollo delle talassemie leggermente modificato, applicato a questo, ringraziando il Dio dalla mattina alla sera, 95 bambini su 100 ritornano normali, guariscono. Lei mi deve dire, mandando a casa Clyden, che è un bambino di Nairobi, che è il primo guarito in Kenya, cosa succede adesso fra le mamme del Kenya che vedono che si può guarire? Noi siamo qui al nono piano della Torre 6 di Tor Vergata, che facciamo questo lavoro di trasferimento di conoscenza, e siamo pieni. Se lei viene qua sembra di essere a Lagos. Professore, senta qua. Quando mio figlio nacque sano non mi chiesi perché. Perché ero così fortunata? Che avevo fatto per meritare quel bambino perfetto, quella vita perfetta? Ma quando si ammalò, cominciai sì a chiedermi perché, mi chiedevo il perché di quello che stava succedendo. Io non ci potevo fare niente, non potevo dire a qualcuno: ora basta, vi prego, ora basta, non vedete che mio figlio sta male? Mio figlio sta male, vi prego, ora basta. Sta lottando, signora Lowe. Sta perdendo. Professore, era Risvegli, tratto dal libro di Oliver Sacks. Ecco, un'ultima domanda, professore. Lei ha dovuto gestire per tutta la vita il dolore e la speranza. Come si maneggiano? Beh, si maneggiano con sofferenza. Questa frase che diceva questa che ho sentito mi fanno dire, ed è una diciamo conclusione sintetica di quasi tutta la mia vita di dottore, quasi dottore di campagna: le regine della guerra contro le malattie sono le mamme, le regine assolute, quelle che smuovono i monti, che spingono i medici ad andare avanti, che fanno venire la rabbia di combattere, che poi alla fine mettono sotto anche i politici che sono contrari. Questa che lei ha, la frase che si è sentito, vuol dire questo: il dottore partecipa insieme a loro e combatte, ma deve avere questa forza qui. Ecco, questo che è necessario, insomma. Sì. Ecco, professore, intanto ci risentiremo di sicuro, la ringrazio moltissimo per la sua testimonianza. Cambiamo argomento e da lontano Pietrangelo ci manda il suo messaggio musicale. Telefono. Pietrangelo, ci mancavi, ci manchi. Buongiorno. Tanto. Buongiorno. Allora questa canzone l'avete sentita nel testo, a me mi piace a Nutella, il piccolo Lucio che canta, un grande successo che spopola su internet ed è la canzone giusta per descrivere una fotografia oggi riportata in tutti i giornali, dove dal balcone di una residenza sul lago di Garda, una residenza che adesso è prestata al dimagrimento, al tonificare le carni, a rendere tutto sempre più agile nell'ottica del salutismo, si affacciano un Silvio Berlusconi vestito sempre con quello stile un po' da gangster, con questa specie di girocollo orrendo, e poi Giovanni Toti accanto a lui con una tutina bianca, sorridente, nonostante la dieta. E quindi immagino. Ma che sta questa appena canzone... cominciando la dieta, povero Toti. Adesso e già. Povero Toti, però, già ha rinunciato alla Nutella, al panino con la panna, a tutte le delizie che il piccolo Lucio canta su internet. E allora Mario, che cosa bolle in pentola? Eccoci qua. Allora, cose grosse, come sempre. Perché Davos continua, tu sai che io sì. mi sono proposto di ogni giorno dare. Noi abbiamo il nostro passer a Davos, sì. aspettiamo che torni con 300 miliardi. Insomma, si parla di equità. Chi vuole vedere il forum tutti i giorni, c'è un sito che dà il webcast, dà aggiornamenti, quindi è interessante. Mi scusi, è sua quella? Sì. È la sì. sua Jaguar? Sì, sì, sì. Lei quanto guadagna? Non lo so, $72,000 l'altro mese. Se mi fa vedere una busta paga di $72,000, mi licenzio e lavoro per lei. Ah, pronto, mi licenzio. Vado a lavorare in borsa. Va a lavorare in borsa, era The Wolf of Wall Street, esce oggi. È un film con Leonardo DiCaprio, l'inequità. Il problema del reddito disponibile per la gran parte della gente. Anche il Papa ieri. Ma qua c'è un sondaggio, di Bloomberg condotto con i global leaders, diciamo, che dice che per il 58% degli intervistati la diseguaglianza nei redditi frena la crescita. Secondo me è vero, perché quando tu non hai reddito disponibile è chiaro che alla fine la mia spesa, la vecchia formula è la mia spesa è il reddito di un altro. Quindi Minoli, se io non spendo, tu non hai reddito alla fine. C'è qualcosa che non quadra in questa cosa qua. Ci sono segnali positivi anche però. Per esempio... La Spagna si sta rialzando, l'abbiamo sottolineato, sull'occupazione in realtà c'è molto da fare se guardiamo i dati, però è uscita ufficialmente dopo 18 mesi dal programma di salvataggio delle banche. Aveva preso 41,3 miliardi di euro dai partner europei. È andata. Ci mancava che non ci andasse. E sai, lì c'è stabilità di governo. Si sa che ci sono i popolari hanno e resteranno le leggi i popolari. Sul mercato del lavoro. Hanno rifatto la legge sul mercato del lavoro e insomma, fanno le cose. Noi no. Che succede? Dobbiamo dare il traffico. Traffico. Vai. Mix 24. Allora Giovanni, quante volte l'hai visto tu Lawrence d'Arabia? Tante. Pure io. Ogni volta è più bello. Ogni volta è sempre più bello. Io mi ricordo sempre la scena di Damasco, quando tutte le tribù si riuniscono e litigano e tornano nel deserto. Succederà così anche sulla conferenza sulla Siria? Tu che ne pensi? Io penso che mi sembra... Che si svolge a Montreux in questo momento. Già un mezzo fallimento, insomma, mi è sembrato di capire... Grandi distanze. Pochissime possibilità e allora noi... Ci spariamo un salamino del nostro amico Buttafuoco, che ci manca e lo ribico. Grazie, grazie. Allora, eccomi qui. Il salamino oggi è di denuncia. Vorrei dare notizia, ma già sulla rete se ne ha avuta. Teledurruti, la televisione monolocale di Fulvio Abate, è stata cancellata su YouTube. È stata un'operazione fatta da pirati informatici. Io che violenza! E certo, perché tutti i potentati hanno a disposizione da che tempo che fa a tutte le produzioni super cinematografiche, televisive, radiofoniche, e invece viene cancellata Tele Durruti. Sono entrati nel canale YouTube, i video caricati sono stati cancellati tutti. Io ricordo che questa televisione, dove circola il libero pensiero, la creatività e forgia lo spirito critico uno scrittore come Fulvio Abbate, trasmette sul web dal 2007, esiste dal 1998 proprio nella TV analogica e se n'è andata via, però immagino che tornerà. Tornerà. Figurati se Abbate si fa spaventare da questo. Ma poi, e poi insomma, pur sempre il premio satira politica di Forte dei Marmi, un'autorevolezza ben superiore accidenti. A tutti Nobel che vengono combinati come se fossero noccioline. Vai. Speriamo di averti presto. D'ora in poi bisognerà sostenere. Questa è la canzone di Fulvio che non è stata ammessa certo. A Sanremo, sentiamo quella ancora sotto. A Sanremo. Esatto. Faremo sale da giù e dal posto dell'Ilva si apre un casino con sei sessi show. Bene, senti qua. Maestro Shifu, che succede? Pirati? Vandali del Monte Vulcano? Qualunque cosa sia, io li stendo in un lampo. Mi sento focoso. Devo fare qualcosa, capite che intendo? Allora, la Kung Fu Panda Holiday, vacanze. Perché Kung Fu Panda? Perché è una delle programmazioni ultime di Netflix, che è una TV via internet, una TV americana, che sta per arrivare e arriverà anche in Italia. Ha aggiunto 2 milioni, altri 2 milioni di abbonati negli Stati Uniti, altri 2 milioni nel mondo, sono 40 milioni. E infatti ne abbiamo parlato Giovanni. Anche con Daniele esatto. Doglio, ti ricordi? Sono 40 milioni. È una ha dato i risultati adesso dell'ultimo trimestre, sono buoni, è una rivoluzione tecnologica che sta cambiando completamente la geografia. I vecchi broadcaster o prendono atto di questa cosa e si muovono, oppure altro che canone di cui parliamo noi, e infatti abbiamo anticipato col professor Doglio il vero tema, cioè la disintermediazione, diciamo, del broadcasting tradizionale. E noi, per parlare ancora del canone, per parlare del canone, posso fare solo una cosa? Sì, certo. C'è un film. C'è stata un'aspra diatriba legale per la divisione. Che... No, hai detto un'aspra diatriba legale. E io sono stato chiaro, non assumo laureati. Sì, ma guardi, è un errore di gioventù del quale sono profondamente consapevole. Io qui fra massimo 6 mesi divento cameriere, 700 euro al mese. Io te li faccio guadagnare in mezz'ora. E smetto quando voglio, lo segnaliamo perché è molto carina. Una serie di laureati non trovano lavoro, non sanno come fare, si devono arrangiare e cosa fanno? Diventano banditi. E poi non possono più smettere. Magnifici sette. È molto bello. Professor Simonelli. Dov'era il canone? Dov'era il canone, professore, ieri sera? Ma guardi, ieri sera è successa una cosa strana, perché mi sono concentrato sulla 7 nella fascia dell'informazione tra le 8 e le 9, tra le 20 e le 21 e 15, sì. E ero certo che avrei trovato lì il canone, perché sa che io trovo molto brava Lilli Gruber e aveva come ospite Cooperlo e quindi mi entusiasmava l'idea, insomma, di vedere un faccia a faccia, perché questo poi lo diremo, questo è il vero asso nella manica. Ma lì mi sono accorto di una cosa strana, che Mentana non ha dato la notizia nel TG delle 20 della morte di Mazzacurati, a cui tutti gli altri TG hanno dedicato il giusto spazio, più chi meno. E mi sono chiesto come mai. Anche e come mai, Mentana, secondo lei? Uno dei suoi giochi preferiti ha dato la notizia dell'alluvione nel Modenese dicendo: di questa alluvione parliamo solo noi, gli altri chissà perché la tengono sotto silenzio. E la mia domanda però a Mentana è: come mai gli altri tutti hanno parlato di Mazzacurati, della sua dolorosa scomparsa, e Mentana no? Mi sembra un mistero. Buttafuoco, te ne sei accorto anche tu? Perché Lilli è bravissima. Pronto, professore, volevo sapere se Buttafuoco se n'era accorto. No, non me ne sono accorto. Non te ne sei accorto perché cosa guardavi alla televisione ieri? Dove era il tuo canone? Il mio canone è fermo ad una puntata bellissima dove ho visto il professor Simonelli e c'era il grande Pupi Avati. E lì sono rimasto incantato, rimasto lì, anche perché il professore Simonelli mi ha finalmente svelato e spiegato la differenza che c'è tra sceneggiato e fiction. E quindi canone era tutto lì ed è fermo lì. Non mi muovo da quella puntata. Grazie. Ma butta fuoco, vuole un mio autografo? Glielo faccio avere, eh? Lei vedo con che mi segue veramente con passione. A Mario non glielo chiedo dove era il cano, perché lui intanto non la guarda. Ho visto una cosa. Ho rivisto Iron Lady, il film sulla Lady Thatcher. Bellissimo. E dov'era? Meryl Streep. Sky. Mamma mia. Sto canone viaggia, circola, gira, professore. Ci dica un po'. Torniamo alla 7. Torniamo alla 7, perché io trovo eccezionale la formula di 8 e mezzo del programma della Gruber. Non al di là dei contenuti politici su cui non voglio entrare. Lì c'è questa grande capacità di isolare un tema, perché come il difetto dei talk è quello di far circolare parole che si annullano. Troppa gente. Qui invece ci sono poche parole che contano. Vi racconto quest'ultima cosa legata a Beniamino Placido. Sì. Beniamino Placido una volta fece una similitudine tra i talk e un problema etologico. Perché, dice, sostengono gli etologi, i pesci viaggiano in branco? Perché si difendono in questo modo dai cacciatori. Il cacciatore, nel momento in cui deve colpire un pesce, essendo in branco, ci pensa un attimo su quale scegliere e nel frattempo i pesci sfuggono. La stessa cosa succede nei talk. Se i conduttori hanno un branco di ospiti, gli ospiti riescono a sfuggire. Professore, invece Lilli Gruber ne ha uno solo e non sfugge mai alle domande. Io ho fatto per 40 anni faccia a faccia, lo so. Senta, professore, volevo dirle una cosa. Un sms per lei: come ci si può entusiasmare all'idea di vedere in TV Lilli Gruber e Cooperlo? Ma prima sms, il secondo, il canone ieri sera era sempre sulla 7 con la gabbia, gli unici che ci dicono come stanno le cose veramente. Ha capito? Tot capita, tot sentenze. Ognuno la pensa come vuole. Però rispondo con la similitudine di Beniamino Placido: nella gabbia ci sono troppi pesci. O leoni. Un altro nostro sms dice: vivevo in America, ora questa per Mario, che ora che sono in Italia vedo Netflix a 5 euro al mese con una qualità invidiabile. Sì. Costantino, sì. Sì, c'è un sistema per vederlo. Ora non so tecnicamente come, ma ho letto che si può. Si può, non è che non si può, solo che questi sbarcheranno poi con tutta la programmazione. Ed è una programmazione di grandissima qualità, fatta di film, di fiction. Il professor Simonelli queste cose le sa e le conosce bene. Secondo me è un avversario temibilissimo. Non so cosa ne pensa il prof. Ma sa che io sono scettico su queste cose. Perché? Voglio vedere poi i risultati tra qualche tempo. Io ricordo che erano scettici sul satellite, ti ricordi? Lo so. Quando e poi in realtà si è aperto un mercato da 1 miliardo di euro. Le nuove tecnologie all'inizio fanno sempre un po' riflettere e poi dopo si vede. Noi avremo, grazie professore, adesso la storia di oggi sarà una storia molto, molto interessante, perché la storia di Umberto Nobile, lo scienziato che negli anni 20 si è cimentato nell'esplorazione del Polo Nord col dirigibile Italia, e poi ci fu la tragedia della tenda rossa. Tra poco, a cura di Marina Milone.